notte comunque si allunga. Le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra. Non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. È sorto il sole su un piccolo mondo, e vecchi banchieri stanno pranzando. Ti devi spingere ancora più fuori, che qui sei cacciato o cacciatore. La polveriera su cui sei seduto aspetta solo il gesto compiuto, e tutti fumano e buttano cicche. Hai visto il fuoco come si appicca? G come giungla, la notte comunque si allunga. Le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra. Non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Il sole ti è contro, ti porta alla luce, non riesci a distinguere tutti i nemici. È proprio quando ti senti un po' in pace che sa presentarsi la bestia feroce. Anche fra loro si stanno sbranando, non hanno fame ma mangiano intanto. È l'abitudine che li mantiene così spietati, così senza fine. G come giungla, la notte comunque si allunga. Le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra. Non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Occhi arrossati, narici imbiancate, denti sbiancati, ghigni tirati. C'è un'altra guerra in sala riunioni, da cui comunque tu resti fuori. E quanto fuori, mai quanto basta, mai quanto basta nascosto. Potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace. G come giungla, la notte comunque si allunga. Le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra. Non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare.